Spesso Anna si era sentita sola e quando mi ha scritto ho capito di aver avuto la fortuna di farle compagnia in uno dei suoi giorni bui. Ricordavo una puntata del programma nella quale avevamo parlato di app di incontri. Io non la ricordavo con la stessa precisione. Si era iscritta per avere la possibilità di conoscere qualcuno di interessante, qualcuno con cui prendere un caffè o fare una passeggiata. Ho fatto difficoltà a capire perché ci tenesse così tanto a raccontarmi la sua storia. Ama la musica, Anna. Ha una bellissima collezione di dischi e un giradischi che le ha regalato il suo ex che custodisce gelosamente. La radio non l'ascolta quasi mai. Preferisce scegliere lei i pezzi in base all'umore del giorno. Ascolta il mio programma per una ragione precisa. Le piace che siamo ad Atri e vuole ricordare le giornate che passava nella sua città quando si sentiva in grado di affrontarle. Vorrebbe andare a correre in villa, vorrebbe fare colazione al bar del teatro e camminare nei suoi vicoli preferiti, quelli che le ricordano i giorni sereni della sua adolescenza. Ora però quando esce di casa dopo qualche ora comincia a sudare. Il cuore batte troppo forte e l'angoscia prende il sopravvento. Le conoscenze fatte sull'app non l'hanno aiutata a ritrovare la serenità. Quando le chiedono un appuntamento sparisce. Il giorno dopo le chiedono il perché, se hanno detto qualcosa di sbagliato, se ha avuto un imprevisto. A quel punto non riesce più a rispondere, non se la sente di spiegare come si vive con un disturbo dell'umore. Come potrebbe raccontare a degli sconosciuti come ci si sente a stare in bilico ogni giorno tra il desiderio di riprendersi la propria libertà, di fare esperienze nuove e la depressione che ti ricorda che è meglio non dare questo peso a nessun altro? Come si racconta la paura di sentirsi male ancora prima di stare male davvero? Vorrebbe poter parlare di musica con loro, ma se poi le facessero qualche domanda specifica, come gli direbbe che non ha un lavoro perché è in cura nel centro di salute mentale? Potrebbe parlare di libri di poesia che scrive per dare colore ai suoi sentimenti, ma ha paura che la giudicherebbero e si sentirebbe ripetere le frasi che la tormentano sempre, le solite frasi di chi pensano che la sua malattia sia solo un po' di svogliatezza. Anna non è mai andata ad incontrarli, ha preso un caffè con me e siamo andati a casa sua ad ascoltare un po' di jazz quando non voleva più vedere persone. Il suo sguardo è un suono così profondo che nessun disco potrebbe descriverlo. Ma se potessi svelare i dettagli della sua persona, sono sicura che tutti gli atriani che l'hanno incrociata almeno una volta le dedicherebbero il pezzo rock più bello che conoscono. Essere bella e pettinata e vista dagli altri e avere dentro un peso così grande che non si riesce ad immaginare è così rock che nessuna canzone potrebbe dirlo meglio dei suoi occhi neri.